fra i boschi un minuscolo paese, così bello che nel mondo non ce n'è. Vive felice, come incantato, come estasiato, non possiede un campanile, come nella grande città. Ma nel tramonto l'arcobaleno s'accende in ciel e nell'aria sembra udir che una campana suona lassù l'ora fatata della preghiera che viene dal bosco. Io la conosco, scende dal cielo come un incanto, un'armonia e l'Ave Maria. E l'Ave Maria. Maria.